Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci. Le ragazze non sembravano più quelle dell'anno scorso, accoglienti, affettive, ma erano distaccate. Tra me e loro c'era un vetro di cristallo che mi separava e ho deciso, cioè ho detto, cambio completamente scuola perché così mi riprendo e non ho più i mali passati, subiti, ma ho un'altra vita davanti. Anche questo è bullismo e viene raccontato molto bene in un volume a cura dello psicologo Nicola Iannaccone, edizioni La Meridiana. Un libro dal titolo Stop al cyberbullismo, poi capirete perché. Con allegato anche un DVD dal quale abbiamo tratto le interviste che vi stiamo facendo ascoltare. Un libro che spiega davvero bene a ragazzi, insegnanti e genitori quanto possa essere subdolo il bullismo e difficile da riconoscere in alcuni casi. Siamo in una scuola superiore milanese. Una ragazza, quella che avete appena ascoltato, decide di cambiare scuola perché le sue compagne la ignorano, non la invitano mai fuori con loro, la escludono dal gruppo. E cos'è questa se non violenza? Succedeva che la mattina magari quelle 4-5 persone di un gruppo si mettevano d'accordo per andare a mangiare fuori il giorno dopo, il giorno stesso, e noi non la coinvolgevamo, ma come non coinvolgevamo lei, non coinvolgevamo anche altre persone della classe, solo che magari a quelle altre persone non gliene importava più di tanto perché avevano altro da fare. Lei invece era proprio questo che aveva bisogno, e noi involontariamente non ce ne rendevamo neanche conto. Una violenza sottile, difficile da riconoscere anche all'occhio di un insegnante attento, ma che su un adolescente può avere un effetto devastante. Dovevo uscire per qualche visita importante e quando ritornavo a scuola chiedevo i compiti o chiedevo i diari alle persone e loro si rifiutavano. O perché dovevano studiare proprio quel giorno, o perché non potevano, avevano altre cose da fare, quindi rimanevo sempre, come dire, fregata. Sentirsi fregate dalla classe, dal gruppo in cui si desidera disperatamente di entrare a far parte. Era un bullismo sottile, era un'esclusione indiretta, non ce ne accorgevamo. Non ci accorgevamo proprio che lei rimaneva fuori proprio dalla classe, forse perché non riuscivamo a capire che comunque lei aveva bisogno di stare in un gruppo, lei aveva bisogno di sentirsi in una classe, e quindi era una cosa sottile ma nello stesso tempo pesante. Nessuno si accorge della sofferenza di questa ragazza, o meglio, nessuno vuole accorgersene. Una sola compagna se n'è accorta della sofferenza, allora è venuta a parlare, a sgridare le compagne. Tutte le altre, comprese quelle che non mi hanno mai fatto niente di male, si univano al capogruppo, alla persona più forte, a quella persona che mi accusava di inventarmi tutto. Ho parlato con anche le insegnanti, alcune dicevano di lasciar perdere, altre difendevano le ragazze, altre non sapevano proprio nulla, e alla fine è arrivata la lettera di un importante insegnante che con questa lettera tutti si sono messi a piangere, si sono resi conto del male che mi hanno fatto. Però io in quel momento avevo già preso la decisione di cambiare scuola. La ragazza non ce la fa più e decide di andarsene, rinunciare a quel gruppo che la respinge e provare a cercarsene un altro di gruppo, in un'altra classe, in un'altra scuola. Intanto la classe lasciata riflette su quanto accaduto. Quando se n'è andata via, tutti ci siamo detti: ah, la situazione è migliorata. Un po' come se ci fossimo tolti un peso, quando invece magari non ci eravamo ancora resi conto di quello che avevamo fatto. Ci buttavamo dentro. Sì, esatto. Perché la soluzione non è quella di togliersi i problemi di dosso, cioè, quindi una volta che la ragazza se n'è andata via è finito il problema, cioè comunque il problema stiamo cominciando a risolverlo adesso. Anzi, si è riproposto con un'altra nostra compagna. Stop al cyberbullismo, dicevamo, è il titolo del libro di Nicola Iannaccone che esce proprio in questi giorni e che raccoglie in un DVD 10 corti per spiegare, anche attraverso le immagini, cos'è questa particolare forma di bullismo, quella che si attua attraverso mezzi elettronici, ormai di uso davvero molto comune fra i ragazzi. Parliamo del telefonino, il computer, la rete con le chat, messenger. Scena 1, 2, primo. Azione! I 10 corti sono stati realizzati in due scuole milanesi, la IPSAR Carlo Porta, un alberghiero di Milano, e la scuola media Rinascita, sempre di Milano. Ecco cos'è il cyberbullismo. Quindi prendiamo invece i quaderni e scriviamo. L'insegnante spiega e scrive alla lavagna. I ragazzi chini sul banco si mandano sms che dicono: Elena porta sfortuna, statele alla larga. E il messaggino arriva anche alla povera Elena, che a ricreazione nei corridoi della scuola viene puntualmente evitata dai compagni. Fino a che qualcuno non si accorge di quanto questa povera Elena possa esserci rimasta male, le si avvicina, le parla, rompendo quasi un incantesimo. Ricreazione, un ragazzo smanetta su un cellulare e trova la foto mezza nuda di una ragazza. Quella foto poi la fa girare sui telefonini di tutti i compagni. Tu adesso mi dici dove hai preso la mia foto? L'ho presa da tuo cellulare, così impari la prossima volta a lasciarlo in giro. Se non vuoi che lo metta su internet, devi stare con me. Ti penso sempre, sei nella mia mente, ti vorrei con me. Un video girato con le amiche in cui una ragazza fa un po' di mosse provocanti. La Noemi Callegari è stata scelta per uno stage all'Hotel Gallia. Una bella notizia, uno stage che fa finire questa ragazza al centro delle invidie di compagni e compagne. È un attimo, quel video finisce sulla rete e addio stage. Ciao Noemi, guarda come sei bella nel video che ho scaricato ieri da YouTube. Avendo questa mattina dedicato anche tempo alle interrogazioni, dovrete poi completare a casa cercando di distinguere sempre fra la leggenda e la storia. Prof, posso andare in bagno? Anche qua la prof spiega, una ragazza si allontana dalla classe, va in bagno e riceve l'ennesima telefonata. Sì, pronto. Ciao Anna, è bello sentirti. Chi sei? Perché continui a chiamarmi? Non ti piace la mia voce? Senti, non me ne frega niente della tua voce, mi devi lasciar stare. Succederà quando ti deciderai a stare con me. Ma io già ragazzo, non voglio stare con te. In chat ti ho solo chiesto di essere un amico. Ma io sono un tuo amico e so aspettare. Si confida con l'amica che le dà una buona idea. Finalmente ti trovo, ma che hai? Francesco, ho paura, questa volta mi ha chiamato. Non mi lascerà mai in pace. Sì. Senti Anna, questo codardo bisogna tagliargli le gambe. Perché non ne parli con la prof di storia? Forse ci può dare qualche idea. Ah, Alice. Ciao Alice. Ho appena finito matematica. Che rottura. A chi lo dici? Ale, urge una cosa. A scuola circolano voci su di te e Matteo. Cioè? Questa mi interessa. Che Matteo non si merita una come te, che pensa di mollarti. Perché è venuto a sapere che è limonato con i ragazzi di mezza scuola. Alice, ma che cosa dici? Chi ha sparato questa bastardata? Sono voci maligne, Ale. È un po' che lo so. Sei la mia migliore amica. Una ragazzina chatta su un messenger con un'amica, o almeno quella che pensa sia la sua amica. Anche se ti spezza il cuore, non potevo più tenertelo nascosto. Lei che limona con tanti ragazzi e il fidanzatino puntualmente la lascia. Dimmi la verità. Dimmi che hai messo in giro queste voci. Sono state delle persone, basta, devi dirmi la verità. Ma tu sei pazza, basta, la nostra storia finisce qui. Per poi scoprire che quella con cui ha chattato la sera prima non era la sua amica. Ciao Ale. Ciao Alice. Ho combinato un disastro. Ma cos'è successo? Ho vomitato addosso Matteo tutto quello che mi ha chattato ieri sera. Ma che stai dicendo? Io ieri sera non ho chattato con nessuno. Ma ti sei bevuto il cervello, abbiamo chattato fino alle 10. Ti giuro che non so di cosa parli. Io ieri sera ero dai miei amici fino alle 11 e non ho nemmeno toccato il computer. Ecco cos'è il cyberbullismo dunque, attraverso le immagini, in questo caso i suoni di chi questi strumenti, chat, social network e naturalmente il telefonino, lo usa e spesso ne abusa per commettere violenze sui compagni, più o meno consapevolmente. Per riascoltare questa trasmissione www.radio24.it, ci risentiamo sabato prossimo come sempre alle 12.45.